Come si fa? Si inizia così com'è oppure... Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. E sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata dalle porte di Tannhäuser. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Con i microfoni tutti un po' sgarrupati. Garrupati, queste cuffie non sento molto bene, ma dirò che i suoni vanno bene. Ma sì, vanno benissimo, benone proprio, alla grande. Porta di Tannhäuser, parliamo di fantascienza in modi sempre più idilliaci. Boh, così ho scelto questo termine. Cioè, sì. Sì, sempre, parliamo sempre di cose rassicuranti che ve la fanno prendere bene. Non è vero. No, anche perché la fantascienza è appunto immaginazione e l'immaginazione spesso si immagina cose pesi. Esatto, che spesso non si immagina niente, forse. No, esatto. Altre volte invece comunque è uno scappare dalla realtà troppo fissa. E infatti oggi parliamo di qualcosa che direi anche nel nostro paese è ben dibattuto, cioè il concetto di famiglia, la famiglia nella fantascienza, un entrée. Allora, io per prepararmi a questa trasmissione ho fatto, come spesso mi capita, ora non mi sento proprio più, forse almeno, vabbè, e mi sono in realtà imbattuta in un... cioè sono andata banalmente su Google, come spesso mi succede. Troppo, ora mi stavo assordando. E come spesso mi succede, sono andata su Google e ho messo banalmente quelle due o tre paroline chiave per cercare di così capire da dove partire con la ricerca. Ecco, mettendo fantascienza e famiglia, i primi risultati sono tendenzialmente famiglia cristiana. Famiglia cristiana che parla ovviamente della famiglia, ma parla della fantascienza, perché c'ha bisogno di... Su avanti. Per carità. E quindi c'è tutte le opinioni di famiglia cristiana, che Dio non voglia che non ce le dicono. E poi c'è poco altro in realtà, ci sono tutte varie... Ah no, scusa, le questioni che riguardano la le saghe di familiari. Familiari, quello l'ho trovata anch'io, sì. Che però pure un po' troppo, sinceramente. E basta. Quindi siamo andati un pochino a ripercorrere nel nostro cervello, nei nostri ricordi, e per cercare un pochino di raccontarvi in che modo si parla della famiglia, o come si affrontano le varie famiglie, che tipi di famiglie si trovano nel mondo della fantasia, quindi della fantascienza, del fantasy e quant'altro. Questo è più o meno. Sì, di base appunto quello che abbiamo riscontrato è spesso e volentieri le famiglie sono famiglie disfunzionali. Anche le più occidentali e belle sono disfunzionali, anzi, soprattutto sì, loro. Molto spesso vengono trattate un po' così, e quindi lo vedremo, anche perché molto spesso, soprattutto nella fantascienza, è, come si diceva anche in apertura, un modo per... parlare male anche della realtà in cui si vive. E quindi, per esempio, un esempio su tutti, Dick Philip K. Dick in tantissimi racconti, non ne citeremo nessuno in particolare perché veramente è molto ricorrente. C'è il classico modello stereotipo di famiglia americana degli anni 60, bianchi, borghesi, diciamo, di media estrazione economica, biondi ovviamente, non lo dice spesso ma ce lo immaginiamo, e tendenzialmente molto consumisti, cioè che la loro vita è una totale aderenza al consumismo e più o meno accentuata a seconda del racconto di Dick, e chiaramente va a finire sempre male. Queste famiglie in realtà sono sempre disfunzionali. Dick mostra sempre dei grandi silenzi, della grande incomunicabilità, delle famiglie tendenzialmente infelici, dove generalmente entrambi i personaggi, anche i figli, vogliono tutti scappare in qualche maniera e provano a farlo in varie maniere. E questo va avanti, diciamo che nella fantascienza quella un po' classica, anche Bradbury c'ha molte queste cose, insomma si ritrova spesso. Era chiaramente la fantascienza il modo anche per uscire da questa quotidianità un po' fatta di villette a schiera, tipica degli anni 50 e 60. Ecco, un primo grande esempio che in cui ci vogliamo addentrare un po' di più è Ballard. Ballard rientra in realtà abbastanza pienamente in questi esempi che vi facevamo adesso, ma li porta un po' all'estremo. Ballard ha, come sappiamo, come abbiamo detto altre volte, ha come radici questo mondo di cui parlavamo adesso, ma non solo non è americano, quindi insomma c'ha una visuale un po' diversa, poi ha visto anche mezzo mondo, ma se ne distacca per portarlo un po' all'estremo, cioè, o meglio, non se ne distacca, ma lo porta alle estreme conseguenze, quindi è sempre un po' più brutale. Se vogliamo, meno metaforico e molto più brutale. E il racconto, per esempio, che vi vogliamo un po' buttare là è Riunione di famiglia, che in realtà in inglese il titolo originale è The Intensive Care Unit, del 77, che poi in maniera un po' più aderente all'originale è stato poi tradotto con terapia intensiva. Quindi nella prima edizione italiana dell'Urania esce con Riunione di famiglia, che comunque non c'entra un cazzo col titolo, però ci poteva stare. Sì, in qualche modo. E poteva avere un senso. E poi invece è stato tradotto con terapia intensiva. E cos'è? È una società dove fondamentalmente i corpi, gli esseri umani non possono entrare in contatto tra di loro, cioè non possono vedersi fisicamente, non possono toccarsi, non possono avere relazioni fisiche l'uno con l'altro, e tutti i rapporti devono essere filtrati dal video, quindi di base è tutto pieno di telecamere e loro si possono relazionare, tutti gli esseri umani si possono relazionare solo attraverso la mediazione del video, del mezzo tecnologico. Non si capisce, Ballard non gli interessa spiegare il perché siamo arrivati a questo. A un certo punto c'è un vago accenno a qualcosa che potrebbe essere stata una pandemia, buffo perché lui lo scrive nel 77 e lì parlano di distanziamento sociale, ma non è veramente importante il perché si arriva a questo. È molto più importante il come Ballard sviluppa tutto questo racconto. Di base ci sono delle scuole, cioè la società appunto è tutta fatta di rapporti non fisici, quindi le scuole sono sostituite da dei box individuali che sono tutti online in qualche maniera, in quell'internet che ancora nel 77 ovviamente era tutto nell'immaginazione di Ballard, però insomma qualcosa del genere già ce l'aveva in testa. E fin da piccoli tutte le interazioni sociali avvengono, come si diceva, in uno spazio virtuale, e ogni casa, anche se sono case individuali perché ogni persona abita da sola, ogni casa è trasformata di base in uno studio televisivo, e quindi i personaggi sono attori, registi, sceneggiatori della propria telenovela, in qualche maniera del proprio racconto cinematografico. Un Truman Show consapevole. Di fatto è proprio un Truman Show. E ovviamente qui si sta parlando di una società dello spettacolo portata alle estreme conseguenze, ma non è così poi distante se ci pensiamo dalla vita in cui viviamo adesso. E ognuno ha un proprio canale virtuale dove in qualche modo racconta a tutti gli altri esseri umani che vogliono entrare in contatto con lui la propria esistenza. Quindi che ne so, le telecamere sono costantemente puntate sui ragazzini che studiano, che fanno merenda, in tutta la propria vita, e quindi c'è un mostrarsi a queste telecamere. Generalmente queste trasmissioni, diciamo, di queste persone sono per uso privato, cioè quindi che ne so, relazioni tra due persone, la telecamera mi serve per far vedere all'altro cosa sto facendo. Ma Ballard cioè, sottointende in maniera molto così sottile un'ansia quasi, e forse anche quasi una speranza, una doppia cosa, che forse c'è anche un regista supremo, c'è qualcun altro che ti sta guardando sempre, per cui tu sì, ti stai mettendo in mostra in un canale televisivo, ma lo fai per qualcuno che ti guarda costantemente, anche se non si sa bene chi è. E quindi anche quando tecnicamente dovresti essere da sola, in realtà c'è sempre qualcuno che ti guarda. E questo è un po' inquietante, è un po' no, ecco, è un po' anche voluto, un po' morboso, ecco. Certo, ricorda un po', che esula un po' dalla famiglia, quella puntata di Black Mirror, sì, pesissima, sì. Una di quelle, sì, che più pese secondo me, che è di quella tipa che scopre di essere, che la nuova serie televisiva che è uscita di punta parla di lei, ma esattamente lei. Tutto quello che sta facendo e anche quello che ha fatto nella stessa giornata. Quindi c'è anche lì un grande fratello dall'alto che in qualche modo poi la butta, vabbè, poi lì c'è tutta la roba etica, lei, vabbè, e soprattutto la gente, quando c'è di mezzo lo spettacolo, la gente sovrappone l'attore alla persona, al suo personaggio, esatto. Mm-hmm. Però qui è ancora più inquietante, se vogliamo, perché comunque è completamente normalizzata questa cosa. Cioè non è una persona che stile davvero Truman Show, che vive la sua vita all'insaputa e poi a un certo punto scopre il velo di Maya e dice oddio che sta succedendo. No, qui lo sanno tutti perfettamente ed è la questione è completamente normalizzata. La roba che rende feroce Ballard è quanto mostri come le persone sono in grado di normalizzare in realtà le violenze che fanno a se stesse anche. E perché c'entra la famiglia in tutto questo? Perché i due protagonisti, che sono un medico e sua moglie, ovviamente fanno anche dei figli, oltre a essere sposati fanno dei figli e li fanno come si fa in questo tipo di società, con l'inseminazione a distanza ovviamente, ma i bambini vengono separati subito dalla madre praticamente, per cui sì, partorisce a un certo punto e lì dice è l'unico momento in cui la madre e il figlio stanno insieme, avviene nell'utero fondamentalmente, però poi i bambini vengono subito separati dalla madre e crescono ovviamente anche dal padre, vabbè, e crescono ognuno in un ambiente separato che fondamentalmente è un reparto maternità dell'ospedale, ma separato sì, ma sempre sotto l'occhio vigile dei genitori che li osservano attraverso questo sistema di telecamere a distanza. Quindi un po' l'estremo del come si chiama quel dispositivo che c'hai quando c'hai il bambino piccolo e gli metti la telecamerina, o comunque il baby monitor, bravo, quella roba là, che è anche, per carità, cioè è liberatorio anche figurati, però ecco, qua c'è un'estremizzazione dove loro sostanzialmente vivono ognuno le proprie vite completamente separati per tutta la vita. E c'è questo piccolo pezzetto che vi leggo, tratto da questo racconto, che dice: da bambino ero stato cresciuto nel reparto maternità dell'ospedale, mi erano stati così risparmiati tutti i rischi psicologici legati a una vita familiare fondata sull'intimità fisica, per non dire dei rischi, non solo estetici, di un'igiene domestica condivisa. Ma ben lungi dall'essere isolato, ci mancherebbe, ero sempre stato circondato da compagni. In televisione non ero mai solo. Dalla mia stanzetta giocavo per ore con i miei genitori, che mi guardavano dalla comodità delle loro case, ed ero dotato di una grande quantità di videogiochi, cartoni animati, documentari sulla natura e telefilm sulla vita in famiglia, che contribuivano ad aprirmi davanti il mondo intero. Anche qua lui gioca un sacco, Ballard. Si sente libero, ecco. Esatto, gioca molto su questa... svelare appunto quanto in realtà no, ma per carità, mica erano degli eremiti, hanno, anzi, cosa che senti dire adesso da praticamente chiunque, ma internet mi ha permesso di vedere un sacco di cose, di vedere il mondo, di conoscere questo e quello. E niente, questa vita familiare di questa allegra famigliola procede regolarmente secondo le leggi per qualche anno, fino a quando a un certo punto il medico decide di trasgredire la legge incontrando la moglie. Decide, basta, moglie che peraltro non aveva mai conosciuto fisicamente, decide, no vabbè, la voglio incontrare. Quindi, cioè, chiaramente Ballard descrive questo primo momento estraniante, completamente devastante, del primo impatto fisico, visivo, emotivo, che fondamentalmente, dice, provoca in sé disagio e disgusto nei due, perché sono talmente abituati a interagire anche con ideali di bellezza ritoccati dalle telecamere, anche movenze calcolate, perché comunque sei davanti a una telecamera, è tutto un po'... ovviamente messo in scena, no? E per la prima volta invece vedi delle persone che fanno le cose senza la mediazione della telecamera. Quindi vanno in panico, gli fa anche un po' schifo. E questo anche è un aspetto bellissimo di Ballard, come descrive questa roba. E poi a un certo punto, niente, invece gli piglia bene e decidono di riunire tutta la famiglia, e quindi di chiamare anche i figli e di riunire e fare questa riunione di famiglia finalmente fisica, dove finalmente si trovano tutti fisicamente, e da lì panico, succede la catastrofe, tutto il senso delle distinzioni affettive che erano di fatto basate su delle immagini mediate da tecnologia crolla, e quindi va in pezzi tutto quanto. Non vi diciamo ovviamente come va a finire il racconto, ma è, come Ballard ci insegna, una catastrofe. Ballard è catastrofico anche quando non parla di terremoti, e quindi anche qui ovviamente finisce in pezzi. E questo era il primo raccontino, ecco. Allora mi collegherei a questo, a Ballard, con due. Una che non ho inserito perché non mi era venuta in mente, ma è venuta in mente ora ascoltandoti. E un'altro invece l'ho inserito. Rimaniamo sempre nei grandi scrittori dell'epoca d'oro, diciamo, e con Asimov potremmo fare miliardi di esempi, perché ha scritto tanto e quindi di conseguenza. Però io invece mi concentrerò sul L'Abisso. L'Abisso È un racconto del 52, che venne pubblicato su Galaxy Science Fiction. La cosa interessante qui è che si parla di alieni, non di esseri umani. Però quando si parla di alieni parliamo anche di noi stessi, no? Tendenzialmente. Praticamente c'è una razza aliena che purtroppo è sull'orlo del collasso a causa dello spegnimento progressivo della propria stella, e la protagonista Wenda appartiene appunto a questa razza aliena. Questi alieni vivono si chiama Abisso perché vivono negli abissi di questo pianeta, no? Un po' alla Matrix, dove c'è il calore, dove è rimasto il calore rimane nel nucleo, quindi si vive sottoterra, più vicino all'unica fonte di calore rimasta. È interessante perché questa razza aliena che vive sotto forma di colonia, fondamentalmente non ci sono padri o figli. Padri o madri, e certo ci sono figli, perché i figli vengono cresciuti a caso da una persona estratta della colonia. Ma dai. Così funziona. Poi chiaramente anche qui la nostra Wenda invece cercherà invece il rapporto con il proprio figlio. Quindi tu non sai, cioè alla nascita non sai chi sono i tuoi genitori biologici, in qualche maniera. Sì, infatti vengono chiamati discendenti. E tu non c'è interesse nel saperlo, certo. Veramente. Perché anzi, il sentimento di maternità o di filialità, come si dice? Quella lì? Il sintomo filiale. Sono sentimenti a loro sconosciuti. E infatti lei si sente strana, addirittura si sente oscena quando comincia a provare qualcosa nei confronti del figlio, dei sentimenti da madre per il figlio che si chiama Roy. E il motivo egoistico per cui l'ha generato, perché in questa società si fanno figli solo per far sopravvivere, che stanno morendo tutti, per far sopravvivere la colonia e la razza in sé. Quindi quando tu procrei lo fai per tutti, per tutti e tutti. Ma e invece lei un pochino lo fa anche per sé, perché c'aveva voglia di avere un figlio, e quindi si sente in colpa per aver avuto questo sentimento. E addirittura comincia ad informarsi per andare dallo psicologo. Ah, certo. Perché dice, boh, ma sarò sbagliata io. Esatto. Comunque poi, questo è, diciamo, un po' la prima parte, perché poi Roy diventa più grande, più maturo, gli anni passano. E addirittura il protagonista viene scelto per una missione interessante, che è andare ad esplorare un pianeta da colonizzare. Aha. Qual è questo pianeta, secondo te? Oddio, non lo so. Quello dove sono tutti i genitori che... No, no, no, è molto più banale. È molto più banale. La Terra. La Terra, esatto. Viene mandato, perché loro sono un po' psionici, e viene mandato per andare su questo pianeta e cercare l'involucro che racchiuda la sua mente. Quell'involucro che racchiuderà la sua mente, insieme a lui viene trasportato un congegno, e se premuto tutta la razza... viene trasportati, quindi è una roba importantina. Bello. E allora c'è tutta poi il resto del libro. C'è lui che prima finisce dentro questo bambino di 6 mesi, che però non può premere nessun pulsante, perché no, ha fatto la cazzata. Ha fatto la cazzata, però in realtà poi troverà altri modi. E insomma, però quello che ci interessava era chiaramente il concetto di famiglia, che è assente in questo posto praticamente. E anzi, è quasi una malattia. Ma infatti, molto spesso c'è, devo dire, la cosa più interessante di questi racconti che cercano di esplorare anche queste diverse possibilità, c'è sempre questa, che bello brutte che siano, c'è sempre questo momento, perché c'è sempre un personaggio che a un certo punto esula o fa la cosa diversa o prova, certo, se non ci sarebbe nulla da raccontare. Esatto. E lì è molto interessante quel momento che raccontavi anche te, di quando ci si vive male la propria diversità, e quindi tu dici, esatto, ma sì, io aspetta, però così come da sentirsi sbagliato, esatto, e anche magari nelle magari tu ti fai tutta un'idea che poi ti crolla perché le cose non erano come le pensavi. Molto molto interessante, molto interessante. Invece te ne racconto un'altra, invece non di un classico ma di una nostra conterranea, cioè Laura Marinelli, un libro che non ricordo, io l'ho incontrato per caso, è del 2022, quindi anche piuttosto ora recente. Il romanzo si intitola Organica, e è questo romanzo molto interessante, parla di una distopia biocapitalista. Cioè una società basata sul consumo, sì, di conseguenza, quindi la società deve consumare per forza, un buon cittadino consuma, se no non certo funziona la società. Non c'è più la moneta, ma la moneta sono i residui organici che servono per fare un po' tutto, e servono per tante cose. Non è questo il fulcro di quello che vi voglio raccontare, però comunque questo quadro. Esatto. In questa società ci sono due enti fondamentali che guidano un po' tutta la società, che sono il Go e la Jester. Il Go è l'ente governativo che gestisce la produttività degli abitanti, per cui ti dice che lavoro devi fare, dove andrai a abitare. E ora si arriva al concetto di famiglia, per cui è anche non c'è scala sociale, tranne che quel piccolo gratta e vinci, che ora ci arriviamo. È tipo un sistema a caste. È un sistema a caste, di base è difficile uscire da quel dove sei. La nostra protagonista si chiama Ruth, è una ragazza madre, quindi insomma non l'avevo mai trovato così, insomma, un romanzo in cui c'era una ragazza madre che porta avanti proprio, non che c'ha una volta il figliolo e poi dopo va avanti nel tempo, perché invece la storia è centrale, esatto. L'altro ente che governa il mondo, e anche in modo più subdolo, è la Jester, che è una società che si occupa di marketing e della promozione dei prodotti che gli abitanti devono consumare. In tutto ciò, quindi, chiaramente, con queste due entità che devono governare tutto, è un casino essere figlioli, è un casino essere vecchi. Quando tu sei vecchio... Sei improduttivo, ti viene messa a un certo punto, allo scadere del tempo, che è ritenuto dal Go, quando è questo tempo, una bella X sul portone, dopo una settimana ti vengono a prendere. Te devi lasciare, quindi da una settimana devi farti trovare con la casa libera davanti a casa. E loro ti portano via e ti porteranno in questo ospizio statale, dove diventi resti organici. Probabilmente quello sarà. pesissimo, e però di conseguenza anche il concetto di famiglia e i figli sono ipercontrollati. Come funziona? Tu allora, puoi avere una famiglia in questo caso. Deve essere una famiglia però che produce e consuma tanto, perché sennò ti portano i figli via subitissimo. Ah. Se invece riesci a mantenere il... Tra l'altro lei, Ruth, è di bassa classe sociale. Lei fa la raccoglitrice appunto di residui organici, che però di base è una prostituta. Ah, ok. Va dagli ricchi e gli prende, cioè dopo che hanno avuto il rapporto, gli prende il seme o altre cose che nel caso ci sono, e le va a vendere, cioè le porta, e allora così le danno a mangiare, le danno queste cose qua. Lei fa questo lavoro qua tremendo. Tra l'altro appunto fanno la fame, questa gente fa la fame, e lei deve invece essere, quindi c'è tutta la parte in cui lei deve nascondere il fatto che è ratitica, perché in realtà... Ah, perché se non, perché sennò si capisce che non, esatto, sta, e tra l'altro lei ha avuto sto figliolo ma non l'ha denunciato, è lì tutto un po' il fulcro del libro, non ha denunciato sto figliolo, quindi da mangiare sempre al figliolo, e non mangia lei chiaramente, e quindi tutte le masciate, va bene. I figlioli, comunque sia, li cresci fino a un certo punto, poi a un certo punto se li prende la Go e se li porta nei grandi asili, oppure già prima viene preso. Il gratta e vinci di cui ti parlavo però è un altro, perché chiaramente questi prodotti, come la Jester lì, sponsorizza, c'è il marketing, quindi l'unico modo per riuscire a fare la scala sociale è far sì che i tuoi figlioli diventino testimonial di qualche pubblicità. Certo. Se ce la fanno, boom, monte di soldi, e allora la vita già cambia. Certo, tipo quelli della Kinder. È brava, ricorda esattamente quello. Poi non lo so, però a me mi ricordo proprio l'immagine che mi ha mandato, è stata quella. Perfetto. E quindi insomma c'è lei, poi ci sono anche altri vari personaggi di cui raccontano, tra cui dei bambini che appunto hanno una famiglia per cui il padre poi perde il lavoro e quindi vengono portati via, insomma. Interessante, devo dire, tutto sommato, nelle sue varie dinamiche erano qualcosa che non avevo mai letto. Bah, interessante. Senti, e poi qui si aprirebbe un capitolo e forse vale la pena di aprirlo prima di andare in pausa, che è Star Wars, dai. Cioè, comunque quando si parla di rapporti problematici familiari, forse il primo, e fantascienza, forse il primo che mi viene in mente, in effetti, è il rapporto problematico tra Darth Vader, quindi tra Anakin Skywalker e suo figlio, che poi si scoprirà essere suo figlio, Luke Skywalker, e fra l'altro anche la principessa Leila, che era sua sorella, che esatto, quella famigliola lì. Potremmo riassumere la storia delle Guerre Stellari col fatto che questi poveri cristi hanno avuto un padre schizofrenico. Sì, palesemente. Per cui a un certo punto non solo è passato al lato oscuro, ma ha perso proprio il capo. Motivo per il quale la madre, quando partorisce, partorisce in segreto, e anzi li divide e non, e fa... Non gli rifare a vedere. Esatto, e anzi non dice di averne avuto solo uno, insomma... Quell'altra non si sapeva, cioè Leila si scopre successivamente essere sorella e figlia, mentre Darth Vader conosceva solo l'esistenza di un figlio. Poi tramite la forza chiaramente riesce a capire tutto, e quindi... E vabbè. E qui chiaro che è una famiglia disfunzionale, soprattutto lo vediamo nella seconda trilogia, che avviene prima, dove c'è il nostro Anakin, che poi da bambino, a parte già da bambino fa questi avance che dici boh, va bene, sarà, fa questa avanza alla principessa Amidala, e che poi però dopo, una volta cresciuto, lei è rimasta uguale, però vabbè, quello è non ha fatto i porti, ma giustamente non è che poteva e a quel punto hanno una storia, però anche lì la storia effettivamente, lui è morboso, lui diventa sempre più morboso, e lei a un certo punto dice basta. Oh, però basta, poi però comunque è molto innamorata, quindi non riesce proprio a mandarlo via, perché poi lui comunque dovrebbe essere uno dei buoni, anche se poi alla fine in realtà diventa il cattivo dei cattivi. Sì, è un po' stalker lui, possiamo dire. È un po' stalker, sì. Un po' stalker. E tra l'altro taglia la mano anche al suo figliolo. Sì, certo. Nella celebre... Un passante. Celebre scena, io sono tuo padre. No! È un po' alla Conte Ugolino lì. È un po' alla Conte Ugolino, esatto. dovevamo per forza citarlo, però non ci racconta niente di particolare, no. Se non un bacio, sì, fra i due fratelli consapevoli, vabbè. Sì, sì, anche il rapporto appunto tormentato tra padre e figlio, queste cose qua che dalla notte dei tempi ci raccontiamo noi esseri umani. Però tornerà, tornerà nella nuova, nella terza trilogia, che invece no, è ambientata successivamente, perché ci sarà a quel punto il figlio di Leila e Han Solo, che è che è proprio Kylo Ren, il bambino capriccioso che nessuno ha sopportato dei fan. Spacca tutto perché gli andava male. Vabbè. Eh sì, e quindi sono tutti vari, varie, cioè è evidente, si rintracciano parecchie tipologie di disfunzionalità sì. tipiche degli esseri umani, ecco. Eh sì, perché poi Kylo Ren ucciderà il suo proprio padre, guarda, un po' classico. Edipo. Invece Darth Vader non verrà ucciso dal proprio figlio, ma dall'imperatore. Ci sarà però una redenzione finale, che comunque a me è piaciuta come redenzione. Ma sì, ma infatti è anche interessante come poi si distacca dal classico e prova a esplorare qualcosa di un po' diverso. Va bene, a questo punto forse possiamo mettere una pausa musicale e ritorniamo subito con altre famiglie disfunzionali. Buon bat! I came upon a charming girl. Sarah is her name. Her parents want a husband with riches, wealth, and fame. I have no wealth and riches and fame. Have never come my way till the night I went to visit my love and through the keyhole say, Sarah, Sarah, won't you come out tonight? Sarah, Sarah, the moon is shining bright. Put your hat and jacket on and tell your mother you won't be long. And I'll be waiting for you round the corner. My Sarah is a girl like this, a girl you seldom see. She loves me only for myself and not for my money. And every night at 8 o'clock she puts her needle away. And standing just outside her door and through the keyhole say, Sarah, Sarah, won't you come out tonight? Sarah, Sarah, the moon is shining bright. Put your hat and jacket on and tell your mother you won't be long. And I'll be waiting. Whispered, Sarah, darling, as I'd often done before. I'll give you a Sarah set of voices down. I went the flop as the mama singing as she kicked me all around the shop. She said, Sarah, Sarah, won't you come out tonight? Sarah, Sarah, the moon is shining bright. Woman, she thought she killed me, and I let her think so too. As I lay there on the floor, I scarce know what to do. At last she said, he's alive or dead, my girl, I've let him wed. So up I jumped, says, thank you, ma'am, and to my girl I said, Sarah, Sarah, won't you come out tonight? Sarah, Sarah, the moon is shining bright. Put your hat and jacket. Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, per chi si fosse appena collegato. 13:59, onde mediocri. Stiamo parlando di fantascienza e famiglia. Esatto. Se ci state ascoltando, sì, dall'area fiorentina potete ascoltarci la 13:59 onde medie, anche da Sollicciano dovreste riuscire a sentirci. E poi vi ricordiamo anche la casella di posta, posta wombat@insiberia.net, alla quale scriverci, diretta wombat.vado.li se avete internet e volete comunicare con noi mentre siamo in diretta. Parlavamo di famiglia e forse in effetti abbiamo detto che parlavamo più che altro di famiglie disfunzionali, e direi che sì, tendenzialmente sì, ma questa invece di cui vi parliamo adesso forse lo è meno di altre, paradossalmente, anche se, sì, anche se nominalmente dovrebbe essere invece quello che lo è di più. Parliamo della famiglia Addams, cioè non potevamo non mettere la famiglia Addams qui. Come vi abbiamo detto spesso, le porte di Tannhäuser spesso si addentra nella fantascienza, ma non solo, ci piace parlare di tutto il mondo un po' fantastico, surreale, orrorifico e tutto quello che è. Quindi la famiglia Addams ci rientra alla grande ed è, potremmo definirla un po' una famiglia allargata, potremmo dire arcobaleno se non fosse che è bianco e nero totalmente, quindi forse arcobaleno non si presta proprio tanto, è più nero cupo. Ma allora, la famiglia Addams molti di noi ce l'hanno in mente con magari i film, addirittura le più giovani di noi se ricorderanno magari con quei film bruttini, se posso dire, degli anni 90, ma in realtà alcune di noi avranno in testa la la serie degli anni 60. Oh, ecco. Che non Mercoledì. No, la serie degli anni 60, che è quella invece più antica e secondo me bellissima, che è stata comunque mandata in onda in Italia allo sfinimento fino agli anni 90, penso, cioè io l'ho visto che ero piccola e non sono così vecchia, quindi insomma è stata mandata moltissimo. Ma in realtà la famiglia Addams parte da un fumetto, cioè anzi da delle vignette. Allora scusami, l'immagine che c'è su Wikipedia è quella prima, quella del link. Perché io ah sì, va bene, il 1864. Esattamente, quella è la serie degli anni 60. Quella non me la ricordo. Quella non te la ricordo. Io mi ricordo quella, allora forse dopo. Ti ricordi quella dopo, cioè i film forse, perché ora ci arriviamo comunque, sì, alle varie possibilità, non mi ricordo. Però sì, se andate banalmente su Wikipedia e guardate le immagini, quella lì è la serie degli anni 60. Ci arriveremo, secondo me è bellissima quella serie, ma prima ancora c'erano il prodotto originale, chiamiamolo così, che erano le vignette, perché certo. Charles Addams, che è il creatore della famiglia Addams, in realtà era un fumettista, tra l'altro leggevo amico che poi diventa amico di Bradbury, così, tanto per gli anelli. E tra l'altro dovevano fare un fumetto insieme su una famiglia, cosa che poi non è andata avanti, ma vabbè. Comunque invece Charles Addams, a partire dal 38, quindi si parla di parecchi anni prima, fa uscire una serie di vignette che poi dopo, a partire dagli anni 60 diciamo, hanno dato vita a una serie di opere di diversi media, come abbiamo visto anche per il Mago di Oz o altre cose, si parte, o anche banalmente dalla Guida Galattica di 2 settimane fa, si parte da una forma e poi da lì si apre un mondo. Quindi qui si parte da delle vignette generalmente monoconclusive, cioè erano proprio una o due vignette, mi sembra, piccoline, che uscivano su delle riviste. E questi personaggi all'inizio erano personaggi assolutamente poco, chiaramente nel tempo di una vignetta non potevi dettagliare più di tanto, però c'erano delle freddure, come dire, delle frasi umoristiche molto taglienti, che in realtà ne decretarono quasi subito il successo, perché la famiglia Addams già ai tempi delle vignette ebbe un grandissimo successo. Il motto della famiglia di questa, già nella versione vignetta, era sic gorgiamus allos subjectatus nunc, ovvero si potrebbe tradurre con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci, che direi che si parte benissimo, con un ottimo motto. Si tratta, come vi ricorderete, di una famiglia dallo stile di vita, diciamo, particolare, un po' non proprio conforme alla norma, ed è fondamentalmente un compendio di umorismo nero, di satira, che prendeva in giro un po' tutti i comportamenti borghesi dell'epoca. Eh sì, proprio... In particolare della società americana. Siamo, ricordiamoci, negli anni 60, cioè, anzi, prima ancora, si parte dal 38 e si attraversa la splendida, gli splendidi anni 40, 50 e poi 60 negli Stati Uniti. Nel 64 il canale televisivo ABC creò la serie televisiva di cui parlavamo, la famiglia Adams, The Adams Family, basata sui personaggi di queste vignette. E quindi gli inizia a dare anche una storia, approfondisce un po' meglio i personaggi, si entra un po' nella questione. Quindi è vero che l'idea era quella del vignettista, però è con la serie degli anni 60 che si inizia a dar vita a un mondo, in realtà. E viene girata in bianco e nero, anche se all'epoca si poteva già girare a colori, ma invece no, bianco e nero, e viene trasmessa per due stagioni costituite da 64 episodi di mezz'ora. E dura per due anni, dal 64 al 66. Ora, lo stile di questa serie, che se non avete visto, io vi invito a ritrovare perché è veramente bella. Sarà su YouTube? Secondo me sì, alla grande. Sicuramente ci sono degli spezzoni, ma secondo me si trova pure tutta. Era uno stile esteticamente, potrei dire, psychobilly. Cioè, è vero che poi, siccome era una famiglia sostanzialmente gotica che strizzava l'occhio ai romanzi gotici della letteratura gotica, quindi c'erano personaggi che ricordavano Frankenstein, i vampiri, insomma, sì, chiaramente riferimento horror, sì. Ma lo stile estetico, sì, con il quale vengono presentati, e soprattutto lo stile degli attori, ma anche del resto delle ambientazioni, delle scene dentro la serie degli anni 60, in realtà è uno stile molto rockabilly, psychobilly, horror psychobilly, tipico di quegli anni lì, che poi viene ripreso nelle controculture, nella sottocultura psychobilly anni dopo, anche già negli anni 80, ma negli anni 60 negli Stati Uniti ha un grosso successo, è una controcultura e sottocultura molto diffusa in realtà, che però non ti aspettavi di vedere sulla ABC in prima serata, o quando è nelle case dell'americano medio, ecco. È uno stile molto particolare, soprattutto dobbiamo pensare che le famiglie che venivano ritratte nei programmi televisivi degli anni 50 e 60 di quel periodo contemporaneo alla famiglia Adams erano quelle che ci abbiamo in testa, quelle incentrate sulla classica famiglia conformista. Lei non lavora e sta sempre in cucina a cucinare per preparare i pranzetti al marito però che torna a casa. Non c'hanno i servi. Ah, no, aspetta, no, io non parlavo ora della famiglia Adams, parlavo della famiglia media. Ah, ok. No. E quindi non lavora, cioè comunque anche la famiglia media non lavora. Vero. La donna però sta in casa a preparare i pranzetti, quando torna il marito dal lavoro, ecco che lei arriva sorridente a portargli la bistecca e chiaramente tutti bianchi, tutti biondi, con i bambini che studiano e i grosso degli screzi. Pensiamo a Happy Days, ma Happy Days già era, insomma, non per niente una serie, insomma, nata anche un po' dopo, però già c'aveva i suoi problemi, perché c'erano i teppisti, c'erano i rocker, c'era qualcosa di incredibile, cioè di un po' così conturbante. Ma le serie tipiche di quegli anni erano proprio mogliettina col grembiule a casa, marito che torna, dialogo umoristico dove lui si lamenta della moglie petulante e del lavoro troppo assillante, e lei fa qualche risata stupida. Questa era quello che doveva essere la serie familiare negli Stati Uniti, sì. Ma non era uno stereotipo, erano davvero tutte così. Tutti avevano i ruoli ben precisi e eccola, la sento. E soprattutto perché ad aggravare la questione, in quel periodo, precisamente dal 1934 fino al 68, è in vigore il famigerato codice ACE. Oh, e qui ci arriviamo. Codice ACE era un codice come esiste negli Stati Uniti, questi principi generali che fanno legge alla quale poi ti devi attenere, la società statunitense si deve attenere. E c'erano dei principi generali, morali, che regolavano cosa poteva essere mandato in onda e cosa no. Ma ok, questo c'era anche in Italia, certo c'era anche la censura e ce l'aspettiamo tutti, non è che ora stiamo a dire qualcosa di incredibilmente strano. Però vi voglio, perché vale la pena forse, leggere alcuni tratti di questo codice ACE per farvi entrare così nel mood. Sono tre principi generali fondamentalmente. Primo, non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli spettatori. Bello come questo morale, esatto, che viene buttato lì. Per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato. Scritto così e poi ognuno la interpreta, no, non come gli pare, ma vabbè. Secondo principio, saranno presentati solo standard di vita corretti, con le sole limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento. 3. La legge, naturale, divina o umana, non sarà mai messa in ridicolo, né sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua violazione. E poi c'erano diverse cose proibite, ovviamente, tra cui il nudo, ovviamente, le danze lascive. Ricordo che siamo all'avvento del rock and roll. Il rock and roll era il massimo della danza lasciva, così come il jazz era il massimo della musica lasciva, o il blues. La ridicolizzazione della religione fu proibita, quindi i ministri del culto non potevano essere rappresentati come personaggi comici o malvagi. Fu proibita la rappresentazione dell'uso di droghe, così come il consumo di alcolici. Quindi la famiglia media americana che non può bere, perché non può fumare, non può bere, non può fare uso di droghe, questo era, non era così buttata là perché erano tutti matti, ma perché era precisamente richiesto. Non potevano essere presentati, mostrati delitti, crimini in modo esplicito. Le allusioni alle perversioni sessuali, chiamate così, tra cui all'epoca, ricordiamoci, c'era inclusa l'omosessualità, erano proibite, anche le allusioni, così come non si poteva parlare, mostrare malattie venere. E era proibita anche la rappresentazione del parto, che anche quello era conturbante, perché si sa che comunque viene dallo Spirito Santo il, Cioè, esatto. C'è una barzelletta che non dirò qui ora, sullo no, Spirito Santo. Poi vabbè, il linguaggio ovviamente ce lo possiamo immaginare, ovviamente non si poteva parlare di adulterio, ma neanche mostrarlo, se ne poteva al limite accennare se proprio c'era bisogno nella trama, ma insomma era un problema. La santità del matrimonio e della famiglia doveva essere sostenuta, incoraggiata all'interno di tutto il film. Rappresentazione di relazioni tra persone di razze, come venivano definite all'epoca, diverse, erano proibite. Matrimoni misti assolutamente no, ve lo scordate. Non ci dovevano essere scene passionali, niente baci eccessivi, lussuriosi. Ma per dirne un'altra che ora non sto trovando, ma me la ricordo a mente perché mi ha colpito, quando si rappresentava in video la famiglia, i genitori dovevano dormire in camere separate con letti separati. Bellissimo, cioè non si poteva far vedere letti matrimoniali, che probabilmente non ci credete. Assolutamente, ci mancherebbe. Quindi va bene, tutte queste cose vi potete immaginare, poi vabbè c'era tutta una parte sulla bandiera degli Stati Uniti, vabbè che ve la risparmio. Insomma, Trump non ha inventato niente sostanzialmente. Vabbè, un paese fondato da fondamentalisti religiosi, scacciati ecco, dall'Europa perché bravo, troppo fondamentalisti. Ricordiamo, fa bene ricordarcelo. Ricordiamocelo. Quindi ora per dire che questo era il contesto. Ok, però la famiglia Adams riesce comunque ad andare in onda. Entra in scena, come dire, la famiglia Adams nel 64, cioè in pieno codice ACE, va in onda. E la cosa veramente, secondo me, molto bella della serie è queste ambientazioni che vi dicevo prima, psicobilly, non erano solo accennate, erano pervasive. Morticia, il personaggio di Morticia è estremamente sensuale. Il rapporto che hanno loro due di genitori, che sono i genitori da un certo punto di vista classici, sì, perché sì, sono tutti bianchi. I pargoletti, cioè di base c'è una stereotipizzazione, cioè è aderente, quindi come dire, codice Ace in parte lo rispetta. Padre, madre, i due figli, i due zii, che strani, di fuori però sono lì, qui, che abitano con loro, che poi sono zii barra nonni barra boh. La nonna, che è molto bello perché nessuno si capisce mai di chi è, cioè, di chi è, esatto. C'è una scena a un certo punto in cui lei dice, Morticia dice, ah ma perché è tua madre? Io pensavo fosse la mia, cioè così. Non me la ricordavo. Bellissimo, bellissimo. Poi ci sono, poi c'è la famiglia allargata, c'è il cugino, no? E tutti, sì, sì, bla, bla, sì. E hanno anche, chiaramente, però sono ricchi in teoria, no? In teoria sono ricchi, insomma, diciamo che c'è degli, in teoria c'è lo stereotipo della famigliola, no? Oltretutto sono tutt'altro che perversi, nel senso che comunque hanno degli standard morali molto precisi, molto nella serie, in particolare degli anni, sì, 60, tipica scena del quello che gli va a suonare la porta perché gli si è fermata la macchina, e loro si fanno in quattro per aiutarlo, cioè hanno delle... cioè questa è proprio la scenetta tipica della serie, sì, degli, vero, anni 60. Cioè il loro essere mostri... però in realtà poi dopo li fa sembrare molto più umani degli altri, esatto, no? E questa è la chiave di lettura particolare, cioè che loro effettivamente da un lato sono la famigliola per certi versi stereotipata, non lo sono affatto, perché hanno tutta una serie di... hanno uno stile di vita stranissimo, hanno delle abitudini assurde, il relax, il modo per rilassarsi è la tortura, che non soffrono però. Anche fra di loro, se non tra erro di loro, sì. Mercoledì ha come... ora parlo particolarmente della serie perché ce l'ho in testa, però certo. Mercoledì ha la bambola che si chiama Antonietta, che lei decapita con la ghigliottina. Già Cioè, mille cosette buffe. E però, là, per esempio, Morticia è super sensuale. È una donna, vero, estremamente, sì, sensuale in ogni non solo perché è molto bella, ma anche per come si veste, sì, per come, esatto, si muove. E tutto. E il rapporto con Gomez, col marito, è un rapporto soddisfacente, anche di sessualità, si allude a una, chiaro, sessualità, chiaro, soddisfacente, che all'epoca, ma non la potevi minimamente, vero, mostrare, vero. Cioè lì si parla dei letti separati, cioè, vero, nelle altre serie. Quindi è molto particolare come cosa. E anche qui, come si diceva, poi in realtà sono dei modelli in fondo positivi, nonostante siano strani, nonostante, sì, si giochi con questa ironia, no? Per cui forse riuscivano a sfangarla perché ci ridevano su. Sì. Però di fatto sembrano essere moralmente molto più alti di quegli altri. Sì. E molto più saldi. Cioè, come famiglia, una famiglia molto salda, molto compatta, molto complice. L'idea che mi ha sempre dato la famiglia Adams è questa: che loro riuscissero davvero a essere una famiglia felice perché libera. Esatto. Mentre gli altri erano oppressi dalla società e non erano liberi veramente. E quindi poi alla fine erano loro quelli che risultavano positivi. Ma infatti, guarda, molto spesso, davvero anche nella serie, che poi, cioè, fa effetto perché è una serie, ribadisco, degli anni 60, c'era lo schemetta tipico, perché chiaramente non puoi fare una serie dove ci sono sempre loro a casa cioè dopo un po' t'annoi, ci deve essere sempre un escamotage narrativo. L'escamotage generalmente è un intruso, cioè qualcuno che viene fuori, può essere un collega di lavoro, un vicino, un qualcuno che entra in contatto con questa nuova famiglia strana e se ne stupisce. Quindi c'è sempre questo giochetto di loro, di persone tra virgolette normali, che entrano in questo mondo e dicono oh mio Dio, qui sono tutti pazzi assassini, e tendenzialmente alla fine della puntata se ne esce sempre con l'impressione che la famiglia Adams siano molto più normali degli altri, cioè che comunque siano molto meno problematici, fanno una vita più rilassata, sono più liberi, si sentono meglio, hanno dei rapporti buffi paradossalmente, ma in realtà molto più sinceri e anche rilassati. Esatto. Mi viene in mente allora a questo punto che, visto che prende proprio più recentemente, più anni 90, la famiglia tradizionale, che poi in realtà è cambiata fino a un certo punto, perché la donna poi, soprattutto in America, si è liberata fino a un certo punto, anzi. Insomma, ci sarebbe da parlarne ore. Però ho visto, per ti dicevo prima, ho visto l'altra sera Hook Capitan Uncino, che mi è molto piaciuto rivederlo, forse un po' la parte bambinesca, il film. Quello Robbie Williams, appunto. E lì si racconta, cioè, i figli sono centrali, perché chiaramente Peter Pan racconta di bimbi sperduti, bimbi dispersi su quest'isola, che poi rifiutano di crescere perché la società in cui poi crescendo si devono immettere è una merda, li spaventa. Esatto. E Hook Capitan Uncino è proprio questo, perché Robbie Williams interpreta Peter Pan. Peter Pan che è cresciuto, perché a un certo punto, dopo le sue mille avventure, è arrivato per un'ultima volta alla finestra di Wendy, che nel mentre cresce e invecchia, e a un certo punto la vede che è invecchiata e dice: oh, mamma. Vede però la nipote di Wendy, quindi la figlia della figlia di Wendy, si innamora a prima vista e quindi dice: no, va bene, basta, voglio crescere, voglio fare questa... Ha visto come... Esatto. Poi alla fine... E però cosa ti succede? Succede che lui non solo scorda tutto, scorda dell'isola che non c'è, bimbi sperduti e tutto, merda. Ma soprattutto lui viene inglobato totalmente dalla società americana, per cui lui diventa un avvocato di quelli arrembanti, che delle grandi multinazionali che vanno a distruggere quegli altri e fanno le grandi acquisizioni. Quindi il peggio del peggio lui è diventato. Rinnega tutto proprio. Rinnega tutto e così rinnega anche proprio la propria famiglia, per cui trascura i figli, la moglie. Ecco, la moglie, devo, tutto sommato, viene super trascurata, e alla fine un po' sembra giustificarlo. Devo dire, ecco, la figura di lei non mi è piaciuta tantissimo, la della moglie. Nel senso, sì, è molto remissiva. Ecco, esatto, poteva fargli un po' più di culo. Però comunque, al di là di, ci vuole la nonna Wendy a dirgli: ma che stai facendo? Comunque. E quindi è interessante che qui si vede, anche qui si critica lo stereotipo della famiglia americana di quel momento, e si cerca in qualche modo di forzarlo. Poi, no, insomma, dovremmo ragionare un po' su... rimane una storia così divertente, però bellino. Più che altro rimane una storia dedicata all'immaginazione. Tra l'altro notavo che secondo me, per fare il film e forse anche per scrivere il libro di Harry Potter, perché il Hook Capitan Uncino dovrebbe essere, sono molto sicuro, sia precedente, ci sono diverse scene che secondo me la Rowling le ha copiate, ci ha preso spunto, via. Cioè, tipo, la tavola è bandita, no? Cioè, a un certo punto c'è il gioco di mangiare e lui non ce la fa, non vede il cibo in tavola, mentre i bimbi le vedono e riescono e mangiano tutto. Che è esattamente uguale alla tavola lì a Hogwarts, in cui si apre. E ce n'era un altro paio che avevo notato lì per lì. Ma vedi sta stronza, oltre ad essere una TERF? Purtroppo sì, è tremenda. Un'altra da scindere dalle proprie proprio, opere. Perché... Cioè, lei è proprio croce sopra. Sì, forever and ever. Vabbè. E vabbè, anche qui comunque c'è la storia familiare, per cui bambina va, finisce il figlio maggiore, soprattutto finisce fra le braccia di Hook Capitan Uncino, proprio perché è trascurato dal padre. Che poi invece riuscirà a tornare da lui, proprio perché ritrova la sua parte di bambino immaginifica. Devo dire però che invece la figlia si crede nel padre, riesce a rimanere distaccata da questa illusione dell'isola che non c'è, quindi bene? È un bene o un male? Non lo so. Molto attaccata alla figura della mamma. La figura della bambina, devo dire anche che forse l'avrei rivista un po'. Un po' buttali. Un po' che rimane, e invece lei rimane un po' incastrata nel... Non lo so, vabbè, ma queste sono mie elucubrazioni inutili. Beh, in effetti, guarda, ora perché veramente poi come tutte le puntate, cioè ci sembra che di aver poco da dire e poi ne avremo da... Mi vengono in mente così. Esatto. È uguale. Però in realtà ci sarebbe da fare una puntata soltanto sull'infanzia, cioè perché ora stiamo parlando della famiglia, ma... È vero. Di esempi di fantasia che si sono immaginati bambini da soli, per esempio, società intere, orde, schiere di ragazzine e ragazzini, ce ne sono, me ne viene in mente diversi. Signore le Mosche, cioè vari. Anche dei manga, Promise to Neverland, che è recente. Sì. Oltre appunto anche Peter Pan originale, peraltro, insomma. Ne abbiamo parlato? Ma sai che forse no? Secondo me sì, no? Da qualche parte noi abbiamo parlato di Peter Pan. Ci avremmo infilato, sì. Però sono talmente tanti anni che facciamo radio. Chissà, potremmo riparlarlo. Cioè, ne riparliamo da zero, come se avessimo l'Alzheimer e qualcuno ci dirà: ma che hai fatto? E allora, prima allora parliamo di Huxley, l'ultimo grande nomone prima della carrellata. Sì. Allora passiamo da Huxley, un mondo nuovo, ne abbiamo parlato svariate volte perché si immagina appunto un mondo diverso, diverso fino a un certo punto, diciamo in realtà metaforicamente molto simile. Però quello che ci interessa nel romanzo distopico, qui non c'è più la filiazione tramite fecondazione, ma c'è la clonazione. Perché la clonazione dovevamo in qualche modo citarla, perché effettivamente anche in Asimov la ritroviamo spesso, è un'alternativa alla normale procreazione e alla normale creazione di famiglie. Certo che se tu cloni e hai un clone di te stesso, come diavolo ti ci approcci? È te stesso. Bruttina come cosa. Infatti, è un casino. E nel mondo nuovo, come viene risolto questo problema? No, scusate, la clonazione è usata proprio perché almeno si elimina tutte le gelosie, le questioni familiari, fratelli, sorelle, che dice Huxley. Lì alla fine sono alla base della maggior parte dei problemi dell'umanità. Ma quindi, infatti, se noi li leviamo, infatti in questo mondo che lui immagina non ci sono guerre, non ci sono rancori, non ci sono gelosie. Guarda, alla fine avresti tolto la Bibbia, l'Odissea, lì, cioè comunque ci sta. Anche qui però chiaramente, come sempre, quando c'è qualcosa che dall'alto controlla, è difficile vada bene, che ne dicano quelli lì, il centro-sinistra. No, vabbè. I più poveri vengono riprodotti in clonazione, però da usare come forza lavoro. Le classi più abbienti invece continuano a usare la fecondazione in vitro, quindi comunque non è una normale fecondazione, però è una fecondazione in vitro, e quindi si riproducono molto meno perché chiaramente non devono lavorare. Ma infatti gli facciamo niente. Tutte le gravidanze sono extra uterine, quindi nessuno cresce dentro la pancia di una madre. Tutti sono figli della società, ho capito, i figli della società. I cognomi vengono scelti e non ereditati, questo può essere anche interessante, ma boh. Anche questo era in là con i tempi, effettivamente. Sì, perché si immagina qualcosa completamente fuori. A questo punto non è più un cercare di scardinare, ma è proprio uscire fuori e guardare. E quando tu hai questa prospettiva esterna in un mondo che sembrerebbe completamente diverso dal nostro, però poi ci trovi le similitudini, e allora è lì il problema. E lì poi si arriva al legno storto dell'umanità. Giusto, giusto. No, niente, mi ricordavo questa cosa qua del mondo nuovo su come gestivano i figli, insomma, la creazione e la... Esatto. E non lo so, vogliamo fare un'altra pausetta, poi andare sul resto? Pausetta furbetta e poi concludiamo con un po' di esempi qua e là, nella fantascienza, nell'animazione, insomma, che parlano, diciamo, un po' di famiglie un po' diverse rispetto alla classica, invece. Esatto, magari anche belle ogni tanto. Anche belle, anche modi diversi di avere figli e quindi anche di concepire la famiglia. Ne parliamo fra poco qui, sempre sulle porte di Tannhäuser. I see my redhead mess paint tearshed queen bee misqueaks. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Per chi si fosse appena collegato, parliamo di fantascienza e famiglia stasera. Le fantafamiglie. Le fantafamiglie. Tra l'altro, ora che mi viene in mente, come si chiamano i progenitori? Anche quella era una bella famigliola, vai. È vero, i progenitori. Fantascienza pura, perché... Ma come si chiamava in inglese, boh, chi se lo ricorda? Ma ne abbiamo parlato, Sì, Ne abbiamo parlato. Bene, i fantagenitori. Vabbè, lo vedremo poi. Però lì è veramente classica. No, la moglie lavora, mi pare. Almeno. Forse c'aveva un lavoro lei. Forse sì. Vabbè. Che di solito invece gli americani, appunto, rappresentano la moglie come casalinga. E quindi... Però sempre sorridente, comunque, allegra. Che anche perché piena di psicofarmaci, come ci insegna Ballard. Tra l'altro, giusto, ecco, mi veniva in mente mentre parlavi prima, no, del fatto che non potevano far vedere niente, le droghe, l'alcol, che poi invece la società americana è una società alcolizzata. Totale. A parte totale. È impasticcata, ma soprattutto alcolizzata. Invece ora la narrazione che viene fatta in tutte le varie serie televisive, invece tranquillamente, ha visto, ogni volta che hanno un minimo pensiero storto, boom, bicchiere di vino. Sì. Boom, bottiglia di vino. Sempre, sì. Tutto con l'alcol. No, guarda, Ballard in questo veramente, io penso di avervelo già detto quelle 700 certo. volte, perché sono una grande fan, ma leggetevi l'autobiografia di Ballard dove lui racconta il rapporto con i genitori, nel senso racconta la vita che facevano i genitori, che erano dei funzionari dell'ambasciata, quindi insomma erano personaggi abbastanza ricchi e benestanti, e che dice sua madre si svegliava la mattina e la prima cosa che faceva era bere un buon martini. Comunque, perfetto, questo era. E lui racconta, lui dice: io non ho mai penso di non aver mai visto i miei genitori sobri, tranquillamente, ed erano delle persone, insomma, non erano racconti di Barrocks o non lo so, erano la normalità negli Stati Uniti. Eh sì, certo. era la normalità. Rita Neil e Martini. Niente, volevo mandare un contributo, ma c'è solo in inglese. Lo manderò, vediamo. Proviamo così. I want to look cute for our hundreds of kids. We shall now stand by without interfering as we observe the sacred process known as the winnowing. What's that mean? It means don't start naming them yet. Giusto. Allora, cosa stiamo sentendo in sottofondo? Stiamo sentendo Futurama. Oh, me pareva. È Futurama perché il nostro meraviglioso Keith, che è, no, il secondo comando del... come si chiama lui? Vabbè, non mi viene. Poverino, super bistrattato. A un certo punto ha la storia d'amore con uno dei personaggi, con Amy, e fanno una famiglia. Bene, tutto qui, fin qui, tutto bene. Ma com'è nella razza aliena di Keith? Come funziona la famiglia? Funziona così, funziona che è l'uomo a rimanere incinto, è l'uomo a partorire, poi partorisce dentro, per forza, dentro una laguna. E poi a quel che punto, la quello che stavate sentendo, cioè questo qua, ora sentiamo, i figli appena si schiudono perché sono delle uova, poi dopo devono arrivare fino ai genitori, però chiaramente in mezzo ci sono i coccodrilli, le cose, no. Ed arriva uno praticamente, eccolo qua, eccolo qua. E basta. Poverino. Poverino. Però qui è interessante. Poi dopo avranno una famiglia to court. Ah no, in realtà non è vero, perché Amy in realtà è una marziana, quindi molto libera, molto insomma slegata dallo stereotipo invece della moglie. Lui invece è un personaggio molle perché è invertebrato ed effettivamente insomma, e poi sarà lui a crescere i figlioli e va bene così. Quello che ci interessa a noi è appunto questa diversa interpretazione di Futurama della famiglia immaginata da una razza aliena, appunto, che è il padre a partorire in laguna. Ma proprio perché in laguna, poverino? Vabbè, è proprio perché sì, no, poi lo spiega, perché ci sono poi tutti gli antenati, perché chi muore poi entra all'interno appaiono tutti questi insetti che tengono dentro di loro. Vabbè, il LSD, sì, cioè, LSD, sintetizzato. Un altro maschio che fa il proprio figlio, invece ci spostiamo a un altro cartone animato, che è Dragon Ball. Perché il piccolo, appunto, che sono ovipari, però è lui a creare. Non ci sono, però apparentemente non vi sono donne, effettivamente. È una razza sessuata, forse. Ah, è vero, forse sì. Ora ci penso. Ho dei ricordi vaghi. Ora anch'io. Però lui cresce il proprio figlio, e sarà Junior, sarà un personaggio fondamentale. E qui la genitorialità però non c'è. Una volta che viene tirato fuori l'ovo, addio, tendenzialmente. O diventi, insomma, o insieme distruggi un pianeta, oppure il rapporto familiare non ci può essere. No, no, no. E anzi qui c'è il classico figlio contro il padre, che sì, ecco, che a un certo punto, cioè dopo un pochino si ravvede, combatte contro il padre, insomma, molto figo. Però ci stava di citare Dragon Ball, perché anche qui, appunto, vabbè, poi invece Goku e tutti gli altri hanno delle famiglie veramente molto classiche. Anzi, Kiki, che è la moglie di Goku, sta a casa. Ah, ecco, ci mancherebbe. Mentre c'è Bulma, che un minimo invece esce dallo stereotipo. Lei è un'inventrice, anzi è una delle più intelligenti del mondo, però capito, è un'eccezione, sì. Però no? Lei è strana, cioè quella strana, tutta un po'. È l'eccezione. Anche le altre donne che vengono rappresentate, che poi diventano madri, sono purtroppo molto stereotipate. Però dobbiamo ricordarci che la famiglia giapponese, sì, possiamo dire che le donne nell'antico Giappone avevano un potere diverso, che controllavano i soldi e quello che vuoi. Fatto sta che però la donna tutt'oggi nella società giapponese viene pesantemente schiacciata, ecco, quantomeno. Sì, direi di sì. È un termine, mi sembra che sia perfetto. Ecco, bene. Schiacciata. Bene, bene. Rimaniamo in tema di, invece, di non aver genere. E ci spezziamo nella mia amata Ursula Le Guin, perché nella Mano Sinistra delle Tenebre, invece, la razza autoctona è molto interessante, l'ho già detto altre volte, perché non vi è un genere proprio non esiste. Però nel momento in cui si crea una famiglia e si deve creare una nuova creatura che nasce, anche in questo caso bene o male, da un rapporto fra due entità. Ecco, in quel momento chi c'ha voglia di paternità e di maternità prende quella via lì. Si decide. La volta dopo, il figlio dopo, potrebbe essere il contrario. E quindi c'è grande stupore del protagonista, chiaramente, che è una roba che di base non gli torna, insomma, gli risulta strana, però è un ricercatore, quindi... Quindi proprio il parto può essere indifferentemente fatto da... Esattamente, è indifferente. Lo decidono lì per lì, che ha sentimento, quindi non è che lo decidono, è il sentimento che lo fa uscire fuori. Molto, molto interessante, devo dire. Invece poi ci spostiamo. Questa è la mia carrellata di oggi pomeriggio. Mi sono ho detto, ma aspetta, allora, ripensiamo a... Mi sono venuti in mente questi qua. Allora, sempre con alieni e sempre animazione, Rick e Morty. Non so se hai visto la puntata. No. La puntata è Rising Gazorpan, Garzorpazorp. Mi piace perché l'hai detto bene. L'ho detto bene. Poi in italiano è Il piccolo Morty, mi sembra il titolo. Qui è interessante perché fondamentalmente finiscono, anzi no, la storia è questa: Rick, Morty trova a un certo punto, sono in viaggio e trova questo oggetto che sembra essere una sorta di bambola gonfiabile robot. Chiaramente lui è in preda all'adolescenza, cioè, e quindi ciao. Dice nonno compramela, il nonno alla fine gliela compra, certo. Lui passa le giornate con la bambola gonfiabile, che però a un certo punto sta bambola fa un figliolo per davvero. Oh no! Perché ricalibra il suo DNA e fa un figliolo. E ora come la mettiamo? Come la mettiamo? Diamine, no, lo crescerò io, sì, sei un bambino di 12 anni, sì. Cosa cresci? 12 anni, ce ne avrà 15 uguale, e quindi insomma poi dopo le peripezie portano a tornare da dove arriva sto robot. Questo robot arriva appunto da Gazorpazorp, che è questo pianeta dove fondamentalmente comandano le donne, totalmente, portano avanti la civiltà. Gli uomini invece quando nascono e escono fuori, uomini, vengono buttati fondamentalmente nel cortile, lasciati, perché tanto sono delle bestie. E ogni tanto gli buttano questi robot con cui tutti questi maschi scemi si accoppiano, tutte le cose tornano. E poi le femmine vengono immesse nella società, gli uomini ributtati lì. E avanti così. E chiaramente Morty dà vita a una... Lui non lo sapeva essere finito in questo... No, perché poi chiaramente sono davvero scemi gli uomini, sono proprio scemi. Per cui il suo figlio poi a un certo punto diventa gestibile. Ah, ok. Poi sono enormi, hanno quattro braccia, è un casino. E quindi in fondo dicono, ma forse facevate bene. Esatto, infatti poi dopo lo lasciano là. E lui, la sua paternità finisce lì. Però Gaganza è una società particolare. Chiaramente Rick e Morty è molto irriverente, per cui prende in giro chiaramente non solo i maschi scemi, ma anche le donne che comandano. Certo. Prendendo lo stereotipo del chiacchiericcio, che ne so, del pettegolezzo. Però insomma, alla fine, secondo me, lo fa sempre abbastanza democratico nel prendere in giro tutti. Sì, infatti. Quindi. Molto carino, recuperatela se volete. Cosa mi manca? Marvel. La Marvel, avremo un'infinità di cose da raccontare. Ma infatti questo tra il rapporto padre figlio, esatto. figlio. Però la Marvel inserisce la questione molto, in realtà niente di nuovo, molto Olimpo, no? Molto mitologico. È vero. Figli, cioè, loro, te hai i poteri perché sei figlio di... Le genealogie. Genealogie, esatto. Per esempio, io avevo scritto Guardiani della Galassia, perché nell'ultimo capitolo, no, lui scopre di essere figlio di un pianeta. Di un intero pianeta che in realtà è senziente, e che poi in realtà va a mangiare il mondo e fa lo Zeus che va nei pianeti e ingravida a seconda di dove va. Varie tipologie di donne, nel caso ci siano donne, o appunto a seconda del pianeta dove va. E la Marvel spesso ricorre a questo escamotage, non per forza di un pianeta, magari di un dio, magari di un alieno molto potente, o comunque sei figlio, no? Lo stesso Superman non è terrestre, anche se poi cresce della famiglia classica, poi tra l'altro dove è ambientato? Nel Texas? No, nel Kansas forse? Non mi ricordo, comunque, in posti aridi. Anche lì, post arido, classico americano, della fattoria dove la madre lavora perché è una fattoria. però di base sta a casa. Certo. Hai fatto venire in mente, vai, tra spalla. L'altro, mentre parlavi di coppie miste, chiamiamole così, aliene varie, mi è venuto in mente un racconto di un di, no, forse proprio un romanzo di Cory Doctorow, Anime nel futuro. Ok, che certo. Che è di un surreale veramente un po' estremo, tanto che io, che sono una veramente fan del surreale in tutte le sue accezioni, ho faticato e confesso che l'ho piantato a metà. Però c'è questo dettaglio molto divertente dove il protagonista, che è questo Alan, è figlio di un matrimonio misto sostanzialmente, perché suo padre è una montagna e la madre è, già, è una lavatrice. Ci sta, può succedere. Quindi è bellissimo perché poi perde, cioè dentro la montagna in realtà c'è un sacco di gente. Cioè a un certo punto perdono il fratello o la sorella, non mi ricordo, e non si trova più, tutti pensano, oddio, ma dove è finita? E poi si scopre che in realtà era dentro la montagna perché si era persa. E poi anche questa cosa della lavatrice è un po' un casino. E lui cerca disperatamente di avere una vita normale, ma è un po' difficile effettivamente con dei genitori così. sì, non facile. Questo era, mi ricordo, che almeno questa parte era molto divertente. Ah sì, che l'associazione diffonde la rete internet senza fili, gratuita, accetta le strategie di fratelli, sì, è un bel casino, è vero. È un gran casino, un gran casino, è vero, è vero. Citazione così estemporanea, che vale per tutti, Alien. Il suo modo di riprodursi è molto semplice, ti spara in faccia i suoi, dalle uova, i suoi piccoli che ti innestano dentro l'uovo e poi ti esce dalla pancia e crescono. E ti colonizzano. E ti colonizzano. Lì però loro sono alla... non in tutto, in realtà poi in un capitolo ci sarà la regina che fa, poi tra l'altro farà quel misto, no? Quello bianco che però morirà alla fine. Però di base non c'è un rapporto filiale se non animalesco, ecco. Non niente di... È vero, è vero. Più. È vero. Eh sì, e poi è una riproduzione vista davvero come una colonizzazione in qualche maniera, molto violenta, nel senso che io voglio ripopolare o ripopolare o comunque prendere spazio su questo pianeta o su questa, sopraffare questa razza, e quindi mi riproduco perché voglio... Eh sì, nel mondo della fantascienza questi esseri parassitari, ce ne sono tantissimi esempi, che ne so, gli Zerg di StarCraft... o i tirani di Warhammer 40.000, eccetera eccetera. E nel caso degli alien non c'è una mente comune che io sappia, mentre spesso nella fantascienza ci si immagina, e questi qui sì, è vero, si comportano da animali, ma alla fine non sono puramente animali. È vero, c'è un organismo unico. Esatto, c'è una mente comune comunque che li muove, sì, spinta anche dalla spinta dell'autoconservazione e della crescita infinita, però insomma c'è un qualcosa che anima il tutto. Negli alien invece penso sia puro istinto. Sì, sì, direi anche io. E invece ti direi, se non ti viene in mente altro, di concludere con La Luna è una severa maestra. Ne avevo già parlato, però è interessante perché qui per esempio i figli non si crescono singolarmente, ma si crescono in comunità, proprio perché non esiste la famiglia classica. Non c'è un padre e una madre classico, c'è una matriarca di base poligama, che può avere più mariti. Di solito ce n'è uno che viene scelto come principale solo per questioni di organizzazione, ma poi in realtà non conta più di nessun altro o di nessun'altra. E quindi si può avere più tranquillamente più mariti. I figli vengono cresciuti un po' dalla comunità, e la comunità cioè si sceglie i propri ruoli nella comunità un po' secondo le proprie inclinazioni. Quindi se sei ti piace coltivare oppure scavare, poi sono molto minatori perché devono stare sulla luna, perché infatti lavori su quelli minatore o però poi nella città ci sono tanti altri lavori, insomma dipende un po' come vuoi. Però qui, ecco, qui invece c'è una crescita di, tra l'altro è quella che mi stuzzica di più, appunto questa crescita comunitaria dove la famiglia è qualcosa di potente, di forte, però perché per sopravvivere, stare tutti insieme, cioè è una questione. E poi c'è molto più amore in quello che ci racconta il romanzo, chiaramente. Certo. Poi boh. Basta, quando lo sperimenteremo ve lo diremo, insomma, però. Esatto, quando lo sperimenteremo in modo libero, perché poi io credo sia stato sperimentato dai fricchettoni, però non sempre, ecco, va bene. No, lì non c'era, c'erano dei problemi di fondo, diciamo. Sì, direi che, beh, vi abbiamo fatto una bella carrellata di esempi. Non so se ci avevi altri in testa. Allora, no, non me ne viene in mente altri. Ci ho pensato. Ma no, ma cioè, già abbiamo abbastanza riempito. Un po' di esempini li abbiamo messi, qualcosa di più. Si diceva, magari più in là faremo qualche indagine ulteriore sulle le saghe familiari, perché effettivamente. Figo. Ora lì molto spesso la famiglia è un po' un pretesto. Di base, eh beh, sì, certo. Stai parlando di fazioni, di guerre molto spesso. Sì. Quindi, forse qui ci interessava più approfondire il rapporto interno alla famiglia così. La società, come vedeva la famiglia, o come se la immagina anche diversa, effettivamente. Nelle saghe familiari, certo, è più un racconto epico dove le famiglie sono un po' una scusa molto spesso. Sì, sì, esatto, sono un po' il punto dove si mette la lente d'ingrandimento, che però poi ingrandisce anche tutto il contorno, che poi è quello che ci interessa poi nel racconto. Quindi sì, assolutamente, ridimmi il titolo di quello che si diceva prima. Il tuo preferito? Gormenghast, che appunto ci ero capitato così e non conoscevo. Ve lo rivocherò un'altra volta, perché quello è proprio il mio cavallo di battaglia, perché lo adoro tantissimo, la saga di Gormenghast, però vale la pena approfondirla con più calma, ecco. Assolutamente. Evviva, anche per questa serata abbiamo finito. Ci sentiamo fra due lunedì, vi ricordo questo venerdì il Ponte Radio, ricordiamocelo, che sarà molto Ponte interessante. Ponte Radio questa volta sarà non il consueto dalle 13 alle 15, ma inizierà un po' prima, verso mezzogiorno. Vi potete già collegare, perché faremo dei collegamenti improvvisi e con delle iniziative che ci saranno in quel di Prato e dintorni con i Sud Cobas. E proseguiremo anche dopo, oltre il Ponte Radio, fino alle 15:30 più o meno. E invece il Ponte Radio Classico si occuperà questa settimana, sarà affidato a noi di Radio Wombat, e si occuperà dei crinali Mugello, dello scempio che stanno facendo con i grandi impianti offshore di eolico, di pale eoliche sui crinali mugellani, e quindi vi parleremo di questa allegra vicenda. Stiamo parlando del 30 maggio 2025, quindi per chi lo sentisse magari in replica, giusto? Quindi sarà quel giorno lì, lì si ritrovano sempre comunque poi negli speciali. Sul sito trovate, andate su trasmissioni, cercate Ponte Radio, così come le altre trasmissioni hanno tutte le loro puntate che potete riascoltare, così anche la nostra e così anche il Ponte Radio, e trovate tutte le varie puntate che vi siete perse magari. Evviva, anche per questa sera è tutto dalle porte di Tannhäuser. Wombat stra Wombat. Wombat, ciao. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.